Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori e buonasera a Luigi Ceccarini. Buonasera a tutti. Luigi Ceccarini insegna scienza politica all'Università Carlo Bo di Urbino e ha scritto un libro sulla cittadinanza online. Perché parliamo di cittadinanza online in una rubrica che parla essenzialmente di economia? Ma è proprio perché la cittadinanza è una parte importante del sistema economico. Ogni persona è cittadino, consumatore, risparmiatore, lavoratore. È così, Ceccarini? Sì, è proprio così, e oggi il cittadino sicuramente, come dire, deve fare i conti anche con la pervasività dei media sui suoi diversi aspetti, sui diversi piani, appunto, anche quello economico, ma anche soprattutto, dal mio punto di vista, quello politico, ma anche civico. Ecco, quindi ecco, cosa vuol dire cittadinanza? Cioè, il concetto di cittadinanza molto spesso è un concetto, diciamo così, un po' burocratico amministrativo. Si è parlato molto di cittadinanza per gli immigrati, però nella sua accezione la cittadinanza è un valore più ampio. Assolutamente, la cittadinanza nel linguaggio, come dire, quello possiamo dire nelle rappresentazioni sociali, è quella legata al passaporto, cioè il rapporto che ti stringe ad uno Stato e quindi a tutti quei diritti e i doveri che ti portano ad essere parte di quella comunità politica. Ecco, dal mio punto di vista, che non sono appunto né un giurista, ma mi interessa del rapporto tra società e politica, la cittadinanza è il rapporto che hanno, le modalità in cui si esplicita il rapporto tra la società e la politica, tra i cittadini e la questione del potere, la questione della democrazia, la questione della rappresentanza anche degli interessi dei cittadini. Certo, e indubbiamente in questa prospettiva la partecipazione dei cittadini diventa diversa dal passato, una partecipazione che è a tutti i livelli. Lei nelle prime pagine del giornale afferma che la rete è andata progressivamente a strutturare una sfera pubblica inedita, ridefinendo la forma stessa dello spazio pubblico. Ecco, cos'è questo spazio pubblico? Beh, lo spazio pubblico è quell'area, quell'insieme di relazioni che struttura il cittadino appunto alle questioni di pubblico interesse, le questioni che lo riguardano in prima persona, come dare risposte ai suoi bisogni, ma anche appunto a quelle strutture, organizzazioni di potere che prendono decisioni per i cittadini, quindi le politiche, quindi non solo la politica come la rappresentanza degli interessi, in qualche modo delle ideologie, i partiti che la rappresentano, i gruppi di interesse, di pressione, ma anche le scelte che la politica fa su questo fronte. Quindi grazie alla rete questo spazio si è ridefinito, si è cambiato, e oggi i cittadini hanno nuove forme, nuove modalità di partecipazione, dovute anche al fatto che quelle vecchie, diciamo quelle tradizionali, quelle legate alle forme istituzionalizzate, penso anzitutto il partito politico nella concezione tradizionale che abbiamo, hanno perso appeal, hanno perso grip, come dico nel libro. Così come l'informazione è cambiata, l'informazione ha anche una certa crisi sotto un punto di vista editoriale, i quotidiani tradizionali certamente resistono, ma l'informazione online ha preso molto il sopravvento. Ma in questo punto sorge anche un problema, perché non tutti hanno accesso alla connettività, alla connessione, ai social media. Come far sì che questa forma appunto di cittadinanza online non sia un'ulteriore limitazione per alcune categorie di persone? Allora, l'informazione, come lei diceva, è fondamentale, ed è fondamentale nel rapporto tra i cittadini e la questione pubblica, quindi essere informati, potere dire la tua, protestare, ma anche sollecitare, fare pressione in qualità di cittadino è l'elemento fondamentale. Il cittadino passa attraverso un cittadino, come dire, informato, l'idea di cittadinanza. È vero quello che lei dice, fa riferimento al cosiddetto digital divide, ovvero certo, che non tutti hanno la possibilità di partecipare. Allora, teniamo conto che ormai anche con questi strumenti sempre più friendly, di cui abbiamo tutti in tasca, abbiamo uno smartphone che non è più noi lo chiamiamo un telefono, ma non lo è di fatto è un terminale dove possiamo fare di tutto, dove ci arrivano notifiche anche su questioni molto di interesse di tipo civile, pubblico, il che questo aspetto riesce a diffondere anche tra quei soggetti che hanno meno competenze, meno capacità di muoversi su fronte tecnologico, riescono comunque a raggiungere queste persone, e questo è molto importante, un elemento di democrazia importante. Poi nella rete circola di tutto, la rete, certo, viene usata non solo tre fini, come dire, politici, con la P grande del termine. Però ecco, la dimensione online è un elemento che, pur con tutti i suoi problemi, riesce a coinvolgere anche in maniera, capito, non, il cittadino non è più o non deve essere più come in passato un cittadino attivo che si vuole attivare, che si vuole informare, eccetera, ma spesso gli arrivano di riflesso queste cose e queste informazioni poi circolano, perché guardate, noi abbiamo sempre l'idea che cittadini e la politica ormai sia un qualche cosa che appartengono ai media, no? Fino a qualche anno fa si parlava molto di televisione come elemento centrale, oggi si parla molto di tweet, di Facebook, eccetera eccetera. Guardate che i cittadini parlano di politica, parlano al bar, certo, hanno i loro blog, certo che hanno i loro forum su Facebook, certo che si attivano petizioni, eccetera eccetera, ma i cittadini parlano anche nella loro quotidianità di politica, parlano tra gli amici. Prego. Lei, proprio in conclusione del suo libro, dice: la politica sul web ha una presenza naturalmente limitata, questo tuttavia non ridimensiona il potenziale della rete per l'inclusione del cittadino nella comunità politica e nella vita pubblica. Questo vuol dire che la comunità politica, la vita pubblica, diciamo le organizzazioni, non hanno tenuto finora abbastanza conto dei cambiamenti che stanno avvenendo proprio grazie alla connettività al web? Assolutamente sì, se poi guardiamo come usano il web i politici, i leader, che la usano come se fosse il web, come dire, 1.0, ovvero senza la, invece il web 2.0 si caratterizza per la possibilità di interazione, no? Tra cittadini e politica e tra i cittadini tra loro, la politica generalmente lo usa in maniera, come dire, quasi primordiale. Ci sono molte ricerche su questo fronte che mettono in evidenza che non viene sfruttato le potenzialità di questo elemento anche per ricostruire un rapporto tra cittadini e politica, un rapporto diretto, un rapporto dove si può in qualche modo, ecco, interagire. E poi un elemento che a me piace molto, e ho sottolineato tanto all'interno del libro, è quella della democrazia del monitoraggio. C'è una democrazia dal basso, no? Ci sono vari autori di diverse estrazioni, mi riferisco a Rosanne Ballon in Francia, a John Keane in Australia o a Shasson negli Stati Uniti. Ecco, c'è anche la possibilità per il cittadino di controllare la politica, di interagire in maniera più diretta, quindi anche controllarli, anche monitorarli, anche valutarli e quindi anche sanzionarli, il che sicuramente fa bene alla politica. Ecco, e questo può essere trasportato anche sul fronte economico: attraverso la rete si possono più facilmente confrontare i beni di consumo, mettere in evidenza quali sono le differenze non solo di prezzo ma anche di qualità, sentire le opinioni delle altre persone su certi beni. Per esempio sono molto diffuse i commenti sui ristoranti o sugli alberghi, quindi anche questa può essere considerata una certa democrazia economica. Beh, assolutamente, questa circolazione più facile di informazioni e quindi disintermediando spesso e volentieri i flussi di comunicazione diventando più diretti, offre maggiore opportunità di informazione. Noi tutti, quando andiamo, vogliamo acquistare qualcosa, cosa facciamo la prima cosa? Accendiamo il computer o attiviamo il nostro smartphone e andiamo a cercare il prodotto in rete per cercare di capire le caratteristiche, le qualità e poi soprattutto dove costa meno. E con tutto il sistema di geolocalizzazione oggi sempre più spesso noi abbiamo una serie di sms, di WhatsApp, di informazioni, certo, via mail, dove ci dicono: guardate che oggi io faccio questa promozione in questo centro commerciale su questo prodotto, se ti interessa il PC piuttosto che la lavatrice oppure non so quale altro prodotto, oggi qui ho questa offerta, perché no? Ecco, tornando alla politica, la parte centrale del suo libro è proprio sulla partecipazione politica. Siamo di fronte a una partecipazione politica, diciamo così, un po' in crisi, c'è una partecipazione elettorale che sta diminuendo progressivamente, una politica che si allontana dai cittadini. Può essere una soluzione, può essere un mezzo per ritornare a una maggiore partecipazione, un uso più responsabile, più intenso, più forte dei mezzi di comunicazione basati appunto sull'online, sul web, sui social network? Allora, qui bisogna dire che la partecipazione in crisi è la partecipazione in forma tradizionale. Noi anche dalle ultime tornate elettorali vediamo la stessa partecipazione elettorale che è in calo, che però ha anche un senso e anche è un messaggio nei confronti della politica, se vogliamo. Le formule tradizionali, l'iscrizione ai partiti, no? La membership, che era un classico della forma della partecipazione istituzionalizzata, è anch'essa in crisi. Tuttavia va sottolineato che l'approccio cyber ottimista non va preso in considerazione, va va ovviamente criticato perché come dire, valorizza troppo la rete. Tuttavia non bisogna neanche come dire, buttare via il bambino con l'acqua sporca, nel senso che la rete offre opportunità di partecipazione. Guardate che quasi il 50% dei cittadini nell'ultimo anno, dati nostri di sondaggi, utilizza nuove forme di partecipazione, ad esempio boicottare un prodotto di una determinata marca perché non rispettano determinati criteri etici, oppure acquistano determinati prodotti proprio perché li rispettano, pensiamo al commercio ecosolidale, a tutte quelle quei prodotti che riportano un labeling scheme, no, su questo certo. fronte, oppure le discussioni politiche via internet, siti, blog, petizioni. Ecco, queste nuove forme stanno consolidandosi e sono una nuova, come dire, opportunità per incanalare, per dare espressione alla voglia di partecipazione che c'è nei cittadini. Guardate che c'è la voglia di partecipazione, poi magari non nelle formule tradizionali, burocratiche, quelle organizzate, quelle troppo gerarchiche. Oggi si parla sempre più di partecipazione individualizzata, dal basso a rete, ma la rete, al di là del web, la rete è un modello di relazione. Ecco, forse va organizzata meglio, per ora è ancora una rete abbastanza in cui c'è molta confusione, c'è molta anche possibilità appunto di cose che non c'entrano e che complicano un po' la vita di chi vuole accostarsi alla rete. Per concludere con una battuta, professor Ceccarini, comunque dobbiamo guardare con positività a queste evoluzioni. Dobbiamo guardare con intelligenza queste evoluzioni. L'essere troppo positivo ci porta a sopravvalutarne gli aspetti positivi, esserne, come dire, negativi a prescindere porta certo. a non apprezzarne gli aspetti che invece possono essere importanti. Quindi l'intelligenza, la capacità comunque di studiare, vederne quelle che sono i riflessi positivi, possono aiutare tutti, cittadini ma anche chi li rappresenta, a migliorare la qualità della democrazia. Grazie mille, grazie professor Ceccarini di essere stato con noi. Chi vuole sapere di più, ovviamente, può leggere il libro La cittadinanza online, edito da Mulino, sono 232 pagine per 14 euro. Grazie a quanti ci hanno ascoltato, l'appuntamento con Economia in Pagina è per sabato prossimo.